Italia in controluce. Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nelle storie di cronaca italiana. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La legge 180, quella sulle malattie mentali, quella partita dall'esperienza dello psichiatra Basaglia, va cambiata. Il dibattito parlamentare ormai è aperto e anche qui si scontrano due modi di affrontare il problema. Da Trieste, Andrea Saule. Basaglia piace in TV, un po' meno in Parlamento. A 32 anni dalla celebre legge 180 che di fatto chiuse i manicomi regolamentando il trattamento sanitario obbligatorio, una proposta di legge di origine parlamentare vorrebbe cambiarla. A spiegare l'esigenza di intervenire sulla legge Basaglia, il relatore e primo firmatario, l'onorevole del PDL, Carlo Ciccioli, psichiatra. È più che sentita l'esigenza di una nuova legislazione in materia di malattie psichiatriche. Il problema non è di retrospettiva, ma c'è... 180 va bene o non va bene, la legge 180 ha superato quel momento, ha rappresentato una svolta di civiltà, questo è un dato che è irreversibile. Qual è invece l'aspetto che deve cambiare? La legge 180 non dà norme per l'assistenza, cioè in pratica viene lasciato alla discrezionalità degli amministratori sanitari, siano esso aziende sanitarie, aziende ospedaliere e via di seguito, sulla possibilità di intervento. Il limite grosso del 180 è stato la nuova cronicità, cioè la vecchia cronicità dei manicomi si è sostituita la nuova cronicità dentro le famiglie. Un problema, quello dei familiari, condiviso anche da sinistra da Livia Turco, che tuttavia si opporrà alla proposta di legge. Le famiglie che hanno familiari con problemi di salute mentale, soprattutto in alcune parti d'Italia, si trovano gravemente sole. È una solitudine, è una fatica che non c'entra nulla con la legge 180. È una fatica e una solitudine che chiama in causa la qualità dei servizi, la preparazione degli operatori, la presenza degli operatori. Tutto questo dunque non c'entra con la revisione della legge. Ancora una volta la revisione della 180 come se questo fosse il problema e non invece la rete dei servizi. La risposta non si dà intervenendo sul TSO, la risposta la si dà aiutando le famiglie con la presenza, con i servizi, con le possibilità di inserimento lavorativo, con i servizi di sollievo alle famiglie. Tutte cose già scritte, insomma, e regolamentate anche da leggi regionali, applicate in modo diverso di regione in regione. Tra le novità che il disegno di legge inserirebbe, anche la possibilità di commissariare per 2 anni chi non le applica. Italia in controluce. La seconda storia viene dalla Sicilia, ci parla di pendolari da Palermo, Nino Amadore. Un contratto di servizio che ancora non c'è, risorse insufficienti, una condizione strutturale della rete ferroviaria tutta da migliorare. I pendolari siciliani chiedono efficienza alla regione siciliana, ma soprattutto a Trenitalia, società controllata da Ferrovie dello Stato. E soprattutto gli oltre 50.000 cittadini, di cui 15.000 abbonati, che ogni giorno viaggiano in treno in Sicilia, chiedono che venga definito prima possibile il contratto di servizio tra la regione e le ferrovie, un contratto di servizio già scaduto da mesi. Come spiega Giosuè Malaponti del Comitato Pendolari Siciliani, che ha scritto una lettera ai rappresentanti del governo regionale in cui chiede di non lasciarsi sfuggire l'occasione. Perché dico in realtà comunque è la prima volta che si presenta questa occasione in Sicilia di poter chiudere il contratto di servizio a differenza delle altre regioni d'Italia. Mentre le ferrovie sono intervenute per cercare di risolvere i problemi sulla tratta Messina-Palermo, aggiungendo anche nuove corse, il rapporto pendolari elaborato da Legambiente ha messo in rilievo una serie di criticità che ancora persistono sul sistema dei trasporti su ferro dell'isola. Dalle carenze sulla rete alla spesa esigua per il materiale rotabile e le manutenzioni. Il contratto di servizio potrebbe essere l'occasione per risolvere alcuni problemi, ma non arriva, come sottolinea Salvatore Granata, direttore di Legambiente Sicilia. La Sicilia è l'unica regione che non ha messo alcun euro di risorse aggiuntive per la gestione del servizio di trasporto ferroviario e a tutt'oggi la regione non ha ancora rinnovato il contratto di servizio con Trenitalia, quindi questo determina un abbassamento del livello dei servizi. Se a questo si aggiunge il fatto che la Sicilia destina 212 milioni di euro al trasporto su gomma, il cerchio è chiuso. A tutti replica Vincenzo Falgares, direttore generale del Dipartimento Trasporti e Infrastrutture della Regione Siciliana. Il contratto di servizio sarà firmato dalla Regione Siciliana appena si determinano le condizioni di un per la sottoscrizione di un contratto equo sotto il profilo dei servizi da rendersi e delle risorse messe a disposizione. Le risorse che dovrà mettere a disposizione lo Stato sono al momento ridotte rispetto al minimo dei servizi che oggi Trenitalia è una dotazione di risorse notevolmente inferiore rispetto a quello che servirebbe per gestire un contratto di servizio. Non ci sono ritardi perché si tratta di un negoziato che è iniziato nel corso del 2009, nella fine del 2009, perché sino a quella data non si aveva un quadro delle risorse messe a disposizione. La Regione sta cercando di negoziare un contratto di servizio che non riguardi solo ed esclusivamente il far sopravvivere un sistema di trasporto su ferro come quello che c'è, ma quello di darsi un programma di investimenti che preveda la realizzazione di infrastrutture a fronte di risorse certe per far camminare i treni e far camminare dei treni che abbiano la dignità da per essere chiamati treni. Che caratteristiche deve avere il contratto di servizio che la Regione dovrà firmare con le Ferrovie dello Stato? Un contratto di servizio che abbia tre stampelle. La prima, un piano di infrastrutture realizzate anche e in gran parte come in questi anni con risorse della Regione in tempi certi. Un piano di servizi che abbia una dotazione finanziaria di trasferimento dallo Stato alla Regione per un periodo congruo e per una quantità di risorse congrue che non è meno di 150 milioni di euro. Un piano di ammodernamento dei mezzi su rotaia che possa dare al cittadino che dovrà servirsene in alternativa modale un servizio almeno degno di quello che si svolge nel resto del paese. Italia in controluce. L'ultima vicenda affrontata oggi al Taglia in controluce la racconta Floriana Liuni, che ha incontrato il fotografo Oliviero Toscani. Com'è nata e che cos'è Razza Umana? Razza Umana è una ricerca fotografica dell'identità di chi abita in Italia. Una serie di migliaia di fotografie di quelli che noi chiamiamo gli italiani, per vedere che non è possibile generalizzare quali sono gli italiani. Però in rapporto alla cultura, alla società, il vero italiano in fondo è sempre Alberto Sordi. E invece quali sono i tipi di italiani veri che sono finiti sotto il suo obiettivo e quali sono le storie che questi hanno trasmesso con i loro volti? Individualmente ci sono delle persone straordinarie, ma è chiaro, ma non sono loro che fanno l'Italia. L'Italia dominante è quella volgarizzata, questo paese di teleidioti. L'italiano dominante, quello della politica, quello del teledipendente, quello del moda dipendente, è un Alberto Sordi, per quello che siamo anche conosciuti nel mondo, perché è l'immagine dominante dell'italiano. Attraverso il suo obiettivo e attraverso anche l'arma della provocazione che spesso ha utilizzato dalle varie campagne sull'anoressia ma anche sull'omosessualità, qual è il nervo scoperto dell'Italia che a lei piacerebbe o piace o è piaciuto mettere a nudo? Ma io per tutto non capisco cosa vuol dire provocazione. Provocazione è una conseguenza di un lavoro, di un giudizio sul lavoro. C'è qualcuno che si sente provocato di dover vedere le cose da un altro punto di vista. La provocazione è segno di generosità, cioè vedere forse è meglio. L'Italia, Monicelli ha ragione, è l'unico paese che non ha avuto una rivoluzione. L'hanno avuto persino i messicani, l'hanno avuto i francesi, l'hanno avuto i russi. Noi non l'abbiamo avuta, non abbiamo fatto l'eliminazione di tutti quelli che non ci dovrebbero essere più. Sarà un po' dura da accettare, ma bisognerà farla. Se dovessi chiederle uno dei suoi scatti che rappresenta l'Italia in maniera particolare? Beh, l'anoressia, chiaramente, l'anoressia culturale. Com'è cambiata l'Italia attraverso l'ultimo decennio e com'è cambiata il suo sguardo sull'Italia? C'è stata sicuramente un'evoluzione, una parte volgare e una parte sicuramente di gente che si rende conto che è volgare. Io fortunatamente appartengo alla minoranza di quelli che vedono che c'è un paese che sta diventando sempre più volgare. Volgare non è un insulto al volgo, cioè siamo un paese diviso in due che però non ha il coraggio di fare la rivoluzione, di affrontarsi veramente. Dobbiamo smetterla di pensare di essere più belli, più bravi, più buoni del mondo. Questo è un grande difetto che ogni mamma italiana ha messo in testa a suo figlio. Dovremmo diventare un paese finalmente fatto di orfani che devono affrontare la vita senza pensare a quello che gli ha detto la mamma, che sei il più bello, il più bravo, il più buono del mondo. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Ci ritroviamo lunedì alle 6:30, naturalmente su Radio 24.